Beh, innanzitutto cerco di farmi sorridere dalla vita. Questo, anche se piove. Questa è una bella cosa. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi 14 novembre in tutto il mondo si celebra la giornata del diabete, un'occasione importante per tornare a parlare di questa malattia, dei fattori di rischio, delle cause, delle terapie, dei traguardi della ricerca, ma anche per riflettere sulle ripercussioni che ha sulla vita delle persone che ne sono affette. Una data che naturalmente non è stata scelta a caso, il 14 novembre infatti corrisponde al giorno della nascita di Banting, che insieme a Charles Best scoprì nel 21 l'insulina. La giornata ha anche un logo, vogliamo ricordarlo, e il logo è un cerchio blu. Blu, il colore del cielo che accomuna tutte le persone del mondo, e il cerchio, proprio nella sua semplicità, ricorda l'unione delle forze di tutto il mondo necessarie per un impegno comune. 800 24 00 24, verde invece il nostro numero che è già a vostra disposizione. Approfittiamo del nostro esperto per valutare il nostro profilo di rischio. Ricordiamo che ci sono ad oggi ancora tante persone affette da diabete ma che non hanno ancora ricevuto una diagnosi. Parleremo di stile di vita oggi, ma anche di come il diabete può cambiare la vita e quali attenzioni sono necessarie per tenere la malattia sotto controllo, mettendosi al riparo dalle complicanze del diabete che possono essere anche gravi. Quindi mettetevi in contatto con noi anche per raccontarci la vostra storia. Se avete come compagno di vita questa malattia, raccontatecelo al nostro numero verde 800 24 00 24. E se per la nostra pagina di cuore, come avete sentito, ci concentriamo sulla giornata del diabete che cade oggi, per la pagina di denari, teniamo comunque lo sguardo ben attento sul calendario, e la giornata a cui fare attenzione è quella di domani. E domani scatta infatti l'obbligo di avere montati pneumatici invernali o in alternativa catene da neve, o comunque portatele con voi. Voi avete già fatto il cambio? Quali sono i vostri dubbi nella vostra regione? Come funziona questo cambio? Quali sono appunto i regolamenti che disciplinano questo cambiamento? Come ogni anno siamo qui, anzi come ogni stagione siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande, anche in questo caso all'800 24 00 24. Got the news today, doctor said I had to stay a little bit longer and I'll be fine. La conosci, Deborah, questa canzone? Mi è capitato di sentirla, sì. Allora, Little Bit Longer è di una band statunitense, i Jonas Brothers. Questa canzone, che tra l'altro dà anche il titolo all'album, è stata scritta da Nick, perché in questo modo ha raccontato, sì, il suo incontro con questo compagno di vita. Pensa che il diabete per lui, fra i fans, no? Che sì, può aver avuto. Sì, e ha utilizzato proprio la musica per raccontare la sua malattia. Ma noi vogliamo parlare insieme ai nostri ascoltatori, che li invitiamo a mettersi in contatto con noi. Parliamo della giornata mondiale del diabete, li invitiamo a raccontare le loro storie, ma noi vogliamo subito presentare l'ospite che è in studio qua con noi, il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Buongiorno. Allora, dottor Bertuzzi, il diabete ha scelto me, ma anch'io ho scelto me. Questo è lo slogan della giornata giornata mondiale di quest'anno. Volevo sapere e chiedere ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano. Possiamo invitarli a chiamare il nostro numero verde o a scrivercelo. Questo slogan, però, voglio raccontarvi che ha una particolarità, perché è stato scelto dalle persone con diabete. Diabete Italia, infatti, ha attivato attraverso email e i social un'ampia consultazione dalla quale sono emerse oltre 200 proposte. A me personalmente lo slogan di quest'anno piace, perché sottolinea, diciamo, il concetto che anche nella malattia si può essere protagonisti attivi. Nessuno naturalmente sceglie di avere il diabete, ma chi ha ricevuto una diagnosi può scegliere di reagire, di imparare a conoscere a fondo questo compagno di viaggio per prevenire le sue mosse, tenerlo sotto controllo. Quindi, se avete ricevuto una diagnosi di diabete, se avete familiari o fattori di rischio, parlatene con noi, il dottor Bertuzzi è pronto. Dottor Bertuzzi, nessuno sceglie di avere un diabete, né il diabete che sceglie, questo è quello che succede per il diabete di tipo 1, malattia che al momento non è prevenibile. Per il diabete di tipo 2 la situazione è un po' diversa, c'è sicuramente una predisposizione, ma abbiamo le possibilità di ridurre il rischio. Insomma, come si dice, per il diabete di tipo 2 la prevenzione può fare la differenza e anche in questo caso cambiare la vita. Assolutamente sì, c'è una predisposizione genetica al diabete mellito di tipo 2, ma in realtà se il paziente mantiene un corretto peso corporeo con uno stile di vita corretto, quindi una dieta, un'alimentazione adeguata e un'attività fisica regolare, quel diabete non si manifesterà, o perlomeno se si manifesterà, si manifesterà in età avanzata. Quindi in qualche modo noi possiamo prevenire e ritardare l'insorgenza del diabete mellito di tipo 2. Diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, uno stesso sintomo, la iperglicemia, due malattie diverse. Dottor Bertuzzi, il diabete di tipo 1 non è al momento prevenibile, a tutt'oggi la causa è sconosciuta, ma è ormai noto che alla base della malattia ci sia una sorta di sabotaggio, lo metto tra virgolette, da parte del sistema immunitario nei confronti delle cellule che producono insulina. Viene anche detto infatti diabete infantile, perché si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, anche se non sono rari i casi di insorgenza nell'età adulta. È corretto? Ci dà qualche informazione in più? Sì, è corretto. Nel diabete di tipo 1 avviene la distruzione di quelle cellule che producono insulina. La distruzione avviene perché il corpo, per qualche motivo ancora non ben chiaro, non riconosce più come appartenenti al proprio corpo le cellule che producono insulina e le riconosce come strane e quindi le distrugge. Sì. La mancanza di queste cellule determina la mancanza di insulina. L'insulina è quell'ormone che è come la chiave che fa entrare lo zucchero all'interno delle cellule. Senza chiave questo zucchero non entra nelle cellule, le cellule quindi vengono a soffrire per mancanza di energia, perché dallo zucchero ricavano energia, e in più lo zucchero in eccesso che rimane nel sangue rimane ad alte concentrazioni e provoca dei danni che determinano le complicanze croniche della malattia. Quindi nel diabete di tipo 1 che colpisce i ragazzi si ha la mancanza dell'insulina. Allora, a proposito di ragazzi, vogliamo ricordare che anche quest'anno la campagna per la giornata mondiale del diabete prevede un'iniziativa dedicata specificatamente al diabete in età pediatrica e precisamente alla diagnosi precoce. Dottor Bertuzzi, dovrei utilizzare un altro termine puntuale, no, del diabete, attraverso la misurazione della glicemia in presenza di sintomi sospetti. Approfittiamo di ricordare, in modo che i genitori all'ascolto possano conoscere e individuarli, sete, stimolo a urinare frequenti, rapida perdita di peso. Dottor Bertuzzi, quali sono gli altri sintomi che possono indurre a spingere quindi a misurare la glicemia in un ragazzino o in un bambino? Qualche volta l'esordio è improvviso, il ragazzo ha queste necessità di liquidi e urina continuamente e in qualche modo si scompensa, ha dei dolori addominali, con l'alito che qualche volta ricorda la frutta marcia, quindi una forma di acetone, di chetosi. Altre volte l'esordio è più subdolo, il paziente magari, il ragazzo perde, dimagrisce, è un po' debole, non fa più attività fisica con entusiasmo e quindi in qualche modo riferisce alla mamma un senso di malessere, magari anche un senso di stanchezza nello studio. In presenza di sintomi dubbi o comunque in una condizione in cui il bambino non si sente bene, occorre quindi recarsi dal pediatra e fare gli accertamenti, che nel caso per la diagnosi di diabete tipo 1 sono abbastanza semplici, basta fare il controllo della glicemia a digiuno. Ecco, allora magari rispondiamo proprio anche con questa ultima indicazione a Maria Simona, un'ascoltatrice che ci scrive al 349-238-6666, che preannuncia che andrà a farsi valutare i valori del diabete e chiedeva come ci si dovesse presentare a stomaco pieno o a digiuno. Quindi digiuno, dottore, vale anche per gli adulti, immagino. Certo. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, il dottor Bertuzzi è a vostra disposizione. Dottore, abbiamo così fatto l'identikit del diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2 invece, lo ricordiamo, è la forma più frequente, milioni di casi in Italia, si manifesta generalmente dopo i 40 anni, anche se negli ultimi anni un numero crescente di casi viene diagnosticato anche in età prima non sospette, no? Cioè durante l'adolescenza, e questo è probabilmente correlato all'aumento del sovrappeso e all'obesità. Anche per il diabete di tipo 2 vogliamo da lei qualche indicazione. La persona affetta da diabete perde progressivamente la capacità di controllare l'equilibrio della sua glicemia. Possiamo dire così, dottor Bertuzzi? Sì, l'insorgenza del diabete di tipo 2 è in realtà molto subdola. In genere, nella maggior parte dei casi, il paziente non si accorge di avere la malattia, perché un rialzo della glicemia modesto, magari 140, 150, 160, non dà dei veri e propri sintomi, soprattutto nelle prime fasi. Poi nelle forme avanzate ovviamente ha delle caratteristiche che in qualche modo ricordano quello di tipo diabete tipo 1, quindi necessità di bere frequentemente e di urinare, ma nella maggior parte dei casi l'esordio è subdolo. Tante volte la diagnosi viene fatta in corso di esami occasionali o addirittura in alcuni casi viene fatta nel ricovero per alcune complicanze. È molto frequente avere pazienti che vengono ricoverati per un infarto o per una malattia cardiovascolare, ictus o arteriosa, e negli accertamenti di screening viene riscontrata una glicemia alta. 800 24 00 24. Deborah, andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Sì, Salvatore della provincia di Torino, il nostro primo ascoltatore oggi ad aver composto il numero verde. Salvatore, benvenuto. Buongiorno. Sì. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Niente, volevo solo dare una testimonianza. Io 5 anni fa sono andato a controllare, ho fatto le analisi della glicemia perché avevo lo stimolo a urinare molto spesso, ma la cosa che più mi allarmava e mi preoccupava è che quando mi arrivava lo stimolo non avevo tempo di dire, appena trovo la possibilità, dovevo darmi da fare, perché arrivava in maniera proprio urgente, immediato. Niente, mi hanno trovato la glicemia e riscontrato 257, quindi diabete. Il diabetologo mi ha dato una cura, io mi sono allarmato, mi sono documentato un po', e a parte le mie 3 pastigliette quotidiane ai pasti, faccio la mia camminata. Ho iniziato a fare 4-5 km tutti i giorni, ero 129 kg, controllando l'alimentazione, dando priorità a frutta e verdura, diminuendo le proteine ma senza eliminarle completamente, e la camminata soprattutto. Io nell'arco di un anno e mezzo ho perso 28 kg. E quella cosa più importante è che i miei valori glicemici non vanno a mattino a digiuno oltre i 110, che conosco come limite superiore. Salvatore, dottor Bertuzzi intanto ci ha fatto un regalo grande a chiamarci e raccontarci la sua storia, ed è quello che invitiamo anche a fare chi ci sta ascoltando. E poi possiamo definire un paziente educato, cioè Salvatore ha ricevuto le informazioni adeguate sulla sua malattia, ha messo in atto tutte queste strategie che voi medici suggerite e che spesso, e che noi tutti conosciamo, no? Esatto, ma che spesso proprio perché ce le sentiamo ripetere, le ripetiamo come una sorta di slogan, ma non ci crediamo fino in fondo. E Salvatore ha sottolineato un concetto fondamentale: l'attività fisica e una corretta alimentazione possono essere cambiare davvero la storia, sia nella fase della prevenzione primaria che in quella secondaria. Quindi prevenire il diabete o migliorare ed entrare a far parte della terapia anche nelle persone che hanno ricevuto diagnosi. Dottor Bertuzzi. È un'ottima testimonianza ed è quello che succede frequentemente. I pazienti che hanno capito l'importanza dello stile di vita nella gestione della malattia possono in alcuni casi riuscire ad ottimizzare il compenso glicemico talmente tanto da poter interrompere l'assunzione delle terapie. Ci sono alcuni pazienti che erano addirittura arrivati a terapia insulinica che dopo un adeguato perdita di peso e una corretta alimentazione si è passati ad una terapia soltanto con compresse fino addirittura a sospendere il tutto. Quindi dal diabete di tipo 2 si può guarire? Si può guarire, rimane ovviamente una predisposizione genetica, nel senso che se il paziente un domani dovesse rimettere peso, chiaramente la malattia si rimanifesta. Questo è vero soprattutto se il diabete viene aggredito all'inizio. Ci sono, è vero, forme di pazienti con un diabete mellito da tanti anni in cui è difficile poi che si possa guarire, perché in quel caso alla fine il corpo è stato talmente stressato dal diabete, il pancreas ha talmente lavorato tanto in eccesso per anni che la malattia non è reversibile. Ma all'inizio è possibile poter tornare in una sorta di condizione di prediabete perdendo il peso. Allora, noi oggi vorremmo anche cercare di dare un piccolo contributo a un problema che è molto serio. L'abbiamo anticipato, molte persone, dottor Bertuzzi, hanno il diabete ma non sanno di averlo, non hanno ricevuto ancora una diagnosi per una serie infinita di motivi, no? Non si sono mai misurati la glicemia, stanno bene, non hanno avuto sintomi e segnali. Su questo non ricevere la diagnosi può costare molto caro, dottor Bertuzzi, perché la malattia ha delle complicanze anche molto severe. Allora, noi adesso abbiamo raccolto alcuni segnali che dovrebbero spingerci a fare una, non un'autodiagnosi, ma di valutare eventualmente il nostro profilo di rischio. Li ascoltiamo e vi aspettiamo naturalmente come sempre all'800 24 0024. Andiamo. Se hai più di 45 anni, la pressione alta, grassi nel sangue elevati. Se hai avuto il diabete in gravidanza o hai partorito un bambino di peso superiore ai 4 kg. Se sei in una famiglia di diabetici, in sovrappeso o obeso, sedentario, poco attento alla tua alimentazione. Dottor Bertuzzi, allora, intanto che invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, se si ritrovano descritti in toto o in parte in questo profilo, esploriamo anche il fattore tempo. Quanto tempo ci mettono questi fattori di rischio a procurarci la malattia? Insomma, quanti anni di sovrappeso, di pressione alta, di colesterolo buono, basso, di glicemia un po' borderline che ci vogliono per trasformare il rischio in malattia? Gli effetti variano da paziente a paziente. Probabilmente esiste anche una predisposizione genetica allo sviluppo o meno delle complicanze, questo ancora non è ben chiaro. Sicuramente tanto più lo scompenso glicemico è elevato, tanto più veloce la progressione verso le complicanze diabetiche, quindi di nuovo un controllo e un monitoraggio. Vogliamo ricordare quali sono i valori della glicemia, così rispondiamo ai nostri ascoltatori? Inferiore a 126 a digiuno. E poi esiste un altro parametro molto importante, che è l'emoglobina glicata. Un'emoglobina glicata che normalmente è inferiore a 6% è definita diagnostica per diabete mellito superiore a 6,5%. Quindi misurando la glicemia a digiuno e l'emoglobina glicata, che è indipendente dai pasti, con questi due parametri noi possiamo fare oggi diagnosi di diabete mellito. Quindi Marco dalla provincia di Treviso che sì. Ci scrive: sono donatore Avis e dono il sangue regolarmente ogni 3 mesi. Se avessi il diabete lo scoprirebbero subito o servono esami specifici? Viene fatto un dosaggio della glicemia nello screening Avis, quindi se ne accorgerebbero subito. Un altro messaggio arriva da Paola. E ho il problema inverso. Che cosa significa se la glicemia è al di sotto dei valori glicemici? La condizione di ipoglicemia, cioè un una glicemia al di sotto dei valori di riferimento in realtà è una condizione clinica ben precisa che si accompagna a dei sintomi ben precisi che vogliono dire debolezza, tremori, sudorazioni, episodi di sudorazione e tremori associati al pasto o nelle condizioni di digiuno oppure associati che insorgono 3 ore dopo un pasto, che si risolvono con l'assunzione degli zuccheri. Quindi definire ipoglicemia vuol dire che c'è stato un sintomo, una serie di sintomi che, sì, hanno, che sono si sono manifestati e che si sono risolti con l'assunzione dei carboidrati e che questi episodi sono comparsi con una relazione con il cibo. Se mancano questi elementi, il riscontro di glicemia occasionalmente al di sotto del 70 può essere un riscontro occasionale che quindi non merita di essere valutato. Andiamo a sentire invece cosa ci racconta Mario da Venezia. Benvenuto all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io racconto la mia storia e anche un consiglio, così possa tornare Grazie. Utile per gli altri. Io ho sempre fatto sport, ho 56 anni, ho sempre fatto sport, ho giocato a calcio una vita, a un certo punto della mia vita ho cominciato a giocare un po' meno, molto stress dal lavoro, sono aumentato di peso dai miei leggero soprappeso, 78 kg, sono arrivato a toccare gli 85,7 kg, facevo gli esami una volta all'anno, poi li ho ritardati di un paio d'anni. Quando li ho fatti, sotto le feste di Natale, mi sono trovato la glicemia 2 volte in una settimana, 145-146. Sì. Il mio medico chiaramente ha detto, guarda, 2 episodi così, questo è tipo 2. Al momento un dramma, perché al momento ci si sente ultra malati, peggio che peggio. Ho fatto una dieta rigorosissima e ho ricominciato a fare attività fisica seriamente. Prima non riuscivo a fare 100 metri, mi mancava il fiato, poi facevo anche 7-8 chilometri tranquillamente di corsa. Questo l'ho fatto, sono abbassato in 6 mesi, sono riuscito ad abbassare il peso notevolmente, nel giro di un anno di 13 kg, poi qualcuno l'ho ripreso, adesso sono intorno ai 77 kg. E ho fatto una dieta prima molto rigida, poi adesso mangio un pochino più morbida di tutto, cercando di non sovrapporre pasta con il pane e con il riso, con delle quantità 60, 70, 80 grammi al massimo, sì, di pasta. Ogni anno, adesso prima 6 mesi, adesso ogni anno faccio gli esami, questo da 5-6 anni. Faccio gli esami, la glicata è sotto i 6,5 perché è stata dai 5,9 ai 6,1 la glicata. E la glicemia invece a digiuno mi varia dai 107, 108 ai 120, 21. Quindi ancora un'altra testimonianza come quella del primo ascoltatore, che lo stile di vita, Salvatore, cambia, sì, può cambiare la vita anche, dottor Bertuzzi. Prima di andare ai mercati, un commento rapido a Mario? Questa è la conferma dell'importanza dello stile di vita. Ricordiamo che senza un corretto stile di vita le stesse terapie sono poco efficaci, perché sì, le terapie tante volte utilizzano dei meccanismi per gestire la malattia che non sono poi quelli fisiologici, quindi lo stile di vita rimane la fondamentale cura. Cuore e denari. Ho bucato! Riesci a tornare ai box? Sì, sì, credo di sì! Ehi, bandiera gialla, rientra! Non fare altri danni, ragazzo! È incredibile! Il pistò più veloce che abbia mai visto! Sì, ma deve entrare in pista prima del pace car! E non sarà semplice! E di nuovo in gara! E ci vorrà un pit stop molto rapido per chi non ha ancora montato pneumatici invernali e vuole mettersi in regola nei tempi giusti le ordinanze che prevedono l'obbligo di circolare con le gomme termiche o in alternativa con le catene a bordo, scattano domani 15 novembre. Noi oggi a Cuore Denari torniamo a fare il punto su tutte le regole, a darvi i nostri consigli per la sicurezza e il miglioramento delle performance del vostro veicolo e naturalmente possibilmente anche qualche dritta sui costi che si possono sostenere in questi casi. Voi iniziate a prenotare le vostre domande all'800 24 00 24, ne parliamo tra poco. Lillo, oh no! I dolci no! C'hai il diabete, te lo vuoi mettere in testa che c'hai il diabete e non devi mangiare i dolci, c'è lo zucchero. Oh, ecco la frutta, quella non fa male al diabete. E noi torniamo a parlare di diabete, prevenzione e gestione. Queste, dottor Bertuzzi, sono le parole chiave. Il diabete di tipo 1, abbiamo detto, al momento non si può prevenire, è una malattia direi più impegnativa rispetto al diabete di tipo 2, ma qualcosa è cambiato. Il paziente, possiamo dire, ha molta più libertà. Certo, innanzitutto l'approccio stesso alla gestione del diabete rispetto ad anni fa è cambiata. Il paziente viene responsabilizzato a gestire la terapia, anche viene educato ad una gestione dell'alimentazione in maniera abbastanza libera, per cui in teoria viene educato a poter mangiare qualsiasi cosa. Oggi i ragazzi possono fare qualsiasi tipo di sport. Nel nostro ospedale, ne guardo ad esempio, si fanno anche dei corsi per i ragazzi per educarli e insegnare loro ad immergersi, e possono fare sport a livello agonistico. Questo grazie anche a delle nuove tecnologie. Oggi sono state sviluppate nuove insuline che hanno ottimizzato la loro efficacia, la loro velocità di azione, e sono in commercio anche dei dispositivi, dei microinfusori per l'infusione continua dell'insulina sottocute, che permette in qualche modo di riprodurre il fabbisogno insulinico in maniera variabile durante le diverse ore della giornata. E ci sono anche dei sensori che, applicati sulla cute, permettono di misurare la glicemia in continuo e quindi al paziente di potersi in tempo reale accorgere dei valori glicemici ed eventualmente correggere in caso di iper o ipoglicemia. Quindi un modo di gestire la malattia semplificato anche dalla tecnologia, anche dall'informazione e dall'educazione costante. C'è un rapporto diverso adesso tra medico, ma dovrei dire medici, perché è l'equipe che aiuta la persona con diabete ad affrontare e a gestire la sua malattia e a vincerla. Ci sono delle storie magnifiche in questo campo, in questo senso. Voglio ricordarvi il libro che ho letto di Monica Priore, Il mio mare all'acqua dolce. Come sottotitolo c'è: ho sfidato il diabete, ho conquistato una vita eccezionalmente normale. Ecco, quello che lei ci raccontava, dottor Bertuzzi, insomma, anche i nuovi dispositivi permettono anche alle persone affette da diabete di condurre una vita, come scrive Monica nella sua copertina, una vita eccezionalmente normale. Storie di e racconti di vita dei pazienti vengono raccolti anche in un progetto, si chiama 5 azioni. Anche Deborah stamattina me lo segnalava perché ne è rimasta molto colpita. Sì, è vero, avevo visto un articolo appunto su un settimanale che è uscito oggi, per cui sì, è un progetto in realtà è iniziato quest'anno e sono state raccolte via internet durante tutto l'anno le proposte da parte degli utenti, e successivamente, tra l'altro, proprio per gestire, no? Per affrontare questa malattia che sta prendendo anche i numeri, alcuni dicono, di una vera e propria epidemia. E successivamente tutte queste proposte sono state vagliate da un comitato scientifico, si sono trasformate nella richiesta formale presentata anche al Ministero della Salute per avviare una campagna di informazione per il 2015. Mm-hmm. Tra l'altro poi questo progetto è diventato anche una mostra, che sono le immagini che vedevi tu, Deborah. Ecco, una campagna di informazione. Dottor Bertuzzi, sembra che diabete non se ne parli mai abbastanza. I numeri crescono, bisogna continuare a fare informazione, perché le persone possono evitare diabete di tipo 2 correggendo il proprio stile di vita, ma perché anche lo stile di vita può cambiare anche la terapia, no? Delle persone che hanno ricevuto diagnosi. Parliamo tra poco di alimentazione con due consigli, ma abbiamo Luisa da Roma. Buongiorno Luisa. Buongiorno, volevo fare una domanda al dottore, riguarda mio marito che ha un diabete mellito 2, è stato diagnosticato perché ha una sindrome metabolica familiare, quindi ora ha 60 anni e diciamo che ci è arrivato quasi naturalmente, diciamo. Mia figlia, che ha 32 anni, abbiamo scoperto che lei è insulino resistente e nonostante tutto, col fatto che lei è infermiera e lavora di notte, gli hanno detto che questo non gli facilita questa cosa, infatti lei è aumentata di peso, ha difficoltà comunque a dimagrire pur facendo delle diete molto rigide, E perché dicono che c'è questa, questa insulino resistenza? Volevo capire bene che cos'è, se è un, diciamo, l'anticamera di un diabete futuro e come curarla, considerando anche il tipo di lavoro stressante che fa. Grazie Luisa. Dottor Bertuzzi? L'insulino resistenza è quel meccanismo che è alla base del diabete mellito di tipo 2. È la ruggine nelle serrature delle cellule per cui l'insulina non riesce a far bene entrare lo zucchero nelle cellule perché la serratura è arrugginita. Questa ruggine è l'insulino resistenza che scatena il diabete. Si riduce l'insulino resistenza con la dieta, con l'attività fisica e anche con l'aiuto di alcuni farmaci. Quindi bisogna gestire questa situazione per evitare che da insulino resistenza divenga franco diabete. A proposito di diabete, la ricerca sta facendo dei passi avanti, in parte ne abbiamo parlato, ma dottor Bertuzzi, ci lasci con raccontandoci qualche cosa che ci dà molta speranza, ci dà speranza. Sì, i ricercatori, ci sono molti ricercatori impegnati nella ricerca soprattutto sul diabete di tipo 1 per trovare una cura definitiva per la malattia. Ci sono delle associazioni, delle fondazioni, in Italia la Fondazione Italiana Diabete, che raccolgono dei finanziamenti per la ricerca. Lo Stato anche, ci sono dei progetti europei oggi aperti per trovare una cura per sconfiggere questa malattia e questo è molto importante. Le prospettive sono buone, ci sono degli ottimi ricercatori italiani che fanno degli studi sul pancreas artificiale, un microinfusore, cioè intelligente, che possa rilasciare l'insulina in relazione alle necessità del corpo. Quindi proprio cucita su misura. In un certo senso sì, gli studi hanno dimostrato che per un certo intervallo di tempo questo è già fattibile, il sistema va ottimizzato, ma questo era impensabile alcuni anni fa. E poi ci sono gli studi sulle la terapia cellulare, certo, sui trapianti, questi sono tutti studi in corso in Italia e all'estero dove tanta gente è impegnata. Però ecco, è importante anche sensibilizzare la gente per in qualche modo facilitare questi studi nelle raccolte fondi, nella sensibilizzazione proprio a finanziare gli studi della ricerca per trovare una cura. Grazie al dottor Bertuzzi per questa informazione, per essere stato con noi. Sarà un weekend ricco di appuntamenti e iniziative. Le mettiamo sulla pagina di Cuore Denari, vi parleremo anche di una app, la Dolce Vita 2.0, un'applicazione per il monitoraggio del fabbisogno nutrizionale giornaliero. Andate sulla nostra pagina, trovate tutte e poi partecipate alle tante iniziative sparse su tutto il territorio nazionale. Dottor Bertuzzi, grazie per essere stato con noi. Buona grazie giornata. A voi. Buona giornata. Buongiorno a tutti. Cuore e denari. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Ecco, se c'è qualcosa che non ci è mancato in questi giorni è la pioggia. È vero. Nessuno si azzardi a fare qualche danza strana per auspicarla. In realtà poi da quello che ho letto arrivano altre bufere nel weekend. Speriamo insomma che quantomeno le zone martoriate nelle ultime settimane siano messi al riparo, ma non credo purtroppo. Comunque sappiamo bene, nonostante il maltempo, molti non possono rinunciare al loro tragitto in automobile. Giornate come quelle che abbiamo visto e stiamo vedendo però impongono un'attenzione ancora maggiore e una manutenzione del nostro autoveicolo molto attenta. Autoveicolo mi è venuto, autoveicolo. Oggi nella seconda parte del programma facciamo un po' di papere, dai. Lo sai, ma che non so perché sarà il tempo, diamo la colpa alla pioggia. L'umidità. Parliamo delle regole, degli obblighi relativi al montaggio degli pneumatici invernali e la nostra pagina di denari, proprio perché ci sono in ballo costi da sostenere e possibili sanzioni, ma l'aspetto economico viene sempre in secondo piano se naturalmente lo mettiamo a confronto con quello della sicurezza. E la nostra sicurezza su questo argomento è quella di Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. È contento di essere qua con noi, come dica no. La verità. E come no. Si trova sempre molto bene qua. Lo vedo dall'occhio. Hanno già iniziato a chiamare gli ascoltatori su questo tema all'800 24 00 24. Noi non appena li sentiremo chiederemo loro se intanto hanno già fatto fare il pit stop alla loro auto per il cambio gomme, avete già quelle invernali, quanto avete speso, le avete dovute cambiare o fate semplicemente un cambio di stagione. Potete mandarci anche i vostri messaggi al 349 238 6666, ma anche su Facebook e Twitter. Allora, domani 15 novembre la data cruciale per questo questo cambio, quella diciamo formale, ma in realtà poi non è che siamo così rigidi, no, dottor Bertolotti? Beh, innanzitutto dipende se quella determinata strada è soggetta o meno ad ordinanze. Le ordinanze possono, non devono, possono essere emanate dai proprietari o gestori delle strade. Entrano in vigore dal 15 di novembre al 15 di aprile. Ormai l'Italia è praticamente tappezzata di ordinanze, di conseguenza chi circola durante il periodo invernale, a meno di non rimanere in un ambiente urbano, sicuramente si troverà a dover rispettare queste norme, che non sono coercitive, ma devono essere viste sempre con un'ogica di sicurezza stradale. Certo, e le di ordinanze buon senso. A cui fa riferimento sono emanate dalla provincia, almeno fino a quando ancora ci sono, è la provincia. Anche prevalentemente dalle province, l'anno scorso 53 province su 110, ma anche le regioni, anche i comuni, anche l'ANAS, anche le autostrade, quindi in Italia sono tanti coloro i quali devono rispettare, fanno rispettare le regole sulle strade. No, perché è interessante questo aspetto, per capire se dobbiamo fare questo cambio e se la strada che dovremo percorrere è interessata eventualmente ad un provvedimento. Non sappiamo bene se dobbiamo andare a vedere un provvedimento della regione o uno della provincia o una del comune, quindi dobbiamo essere anche ben svegli su questo aspetto. Certo, in questo senso noi abbiamo provato a dare una mano, proprio un'informazione di servizio sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it. Ciascun automobilista liberamente, senza ovviamente costi, pubblicità, non ci sono marchi né niente, può ricavare questa informazione andando nella regione di pertinenza che interessa e vedere se quel tratto stradale è interessato o meno. Da domani saranno tutte in linea quelle che sono già state emanate, perché attenzione, ci sono alcuni che sono in ritardo perché ci sono delle ordinanze cosiddette sine die, cioè le hanno fatte per sempre, e altre invece che ogni anno le modificano. E perché anche c'è questo divertimento, perché cambia la qualità del manto stradale di pertinenza? Francamente un po' difficile da comprendere, perché la direttiva ministeriale dice: se uno vuole fare ordinanze le deve fare secondo determinati criteri, altrimenti la regola è precisa, il periodo dal 15 novembre al 15 aprile non si possono fare ordinanze una diversa dall'altra, altrimenti c'è una grande confusione. E ne abbiamo già tanta di confusione. Esatto, no, evidentemente i sindaci così un po' si divertono anche su questo. No, tra l'altro stavo pensando, per esempio, io che oggi sai che vado a trovare i miei nipotini, vado nelle Marche, quindi percorro un po' di Lombardia, un po' di Emilia Romagna e poi le Marche, teoricamente, anche se l'obbligo parte domani, facciamo l'esempio del viaggio di ritorno, dovrei sapere molto bene tutte le città che percorrerò in questo viaggio, come si comportano, insomma, che cosa hanno disciplinato per l'uso dei pneumatici invernali. Certamente bisognerebbe, ma proprio per evitare questo simpatico, poco simpatico diciamo, esercizio, se uno ha o pneumatici invernali o catene nel bagagliaio pronte per essere montate quando c'è la neve, ovviamente parzialmente. Ma più che vederlo come un obbligo e un rispetto di norma piuttosto che una sanzione pecuniaria, perché ci sono anche sanzioni, ma un fatto di sicurezza stradale e di mobilità per tutti. Certo, no, stavo pensando che appunto la questione dell'avere a bordo le catene da neve ci mette già al riparo da ogni possibile contestazione da un'autorità di controllo che ci fermi appunto e che ci faccia il rilievo sulla qualità della gomma. Ma diciamo che il problema adesso, dottor Bertolotti, lei lo sa, è l'acqua. Ce n'è tanta in giro, sta piovendo tantissimo. Certo. Qual è il buon pneumatico che ci protegge da questo manto stradale così viscido, scivoloso? Il buon pneumatico è il pneumatico che ha una profondità di scolpitura del battistrada, così si dice, cioè lo spessore del battistrada deve non essere proprio al limite di legge. Sappiamo, per fare solo un esempio, dare qualche informazione, un pneumatico estivo generalmente quando nasce da nuovo ha 8 mm di spessore, un pneumatico invernale un po' di più, circa 9, poi chiaramente le differenze ci sono. Il limite di legge è 1,6 mm. È chiaro che se un automobilista si trova a dover circolare in una situazione di abbondante pioggia, deve essere consapevole, e se è al limite di usura deve regolare la velocità perché altrimenti si innesca quel fenomeno dell'acqua planning, già sentito credo da molti, ma che magari nessuno sa che cosa sia esattamente. Esatto. Ma è il galleggiamento del veicolo sull'acqua, e a questo punto l'immediata perdita d'aderenza, soprattutto in curva. Incredibile. Allora, dobbiamo andare a sentire adesso il giornale radio, però rapidamente faccio fare la domanda a Giovanni da San Marino, che è una zona neutrale, e lui vuole sapere insomma cosa deve fare là, forse. Buongiorno, magari Giovanni. Anche lui. Bella domanda la sua, veloce. Sì. Sì, buongiorno, solo per dire che noi qua la neve la conosciamo perché 3 anni fa abbiamo avuto 4 metri, quindi siamo ben attrezzati. L'unica cosa è che se lei viene giù nelle Marche le consiglio di portarsi dietro il costume per il picnic, esatto, perché ci sono 20 gradi. E la mia domanda è un po' questa qui: domani c'è l'ordinanza, ma qui le temperature sono alte, ma i pneumatici invernali si rovinano con queste temperature. Giovanni, manteniamo la suspense su questo argomento, le rispondiamo dopo il giornale radio. Cuore e denari. Allora forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino 5 punti, chi vede prima un cavallo 10 punti. Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, rivende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano fuori. Andiamo piano, sì, aspetta che adesso accosto. Anteriore destra, come volevasi dimostrare. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Ma desveglia di tesoro! Oggi Fabio Bertolotti non le abbiamo messo la macchina del capo e il buco nella gomma come le altre puntate, di solito gli mettiamo la canzoncina, ma insomma abbiamo diversificato il nostro accompagnamento. Vogliamo sempre stupirla con effetti speciali. Allora, abbiamo sentito Furio con gli imprevisti dell'auto, che sono naturalmente sempre in agguato, anche per i più meticolosi come il nostro appunto Verdone, che interpreta questo curioso personaggio. Però con una buona manutenzione possiamo ridurre al minimo i rischi e garantire la nostra sicurezza. Oggi a Cuore Denari stiamo parlando della manutenzione e del cambio periodico delle nostre gomme, perché da domani scatta l'obbligo dei pneumatici invernali, ma naturalmente questo è un obbligo che peraltro ha una stretta attinenza anche con le ordinanze locali alle quali dobbiamo fare riferimento a seconda del posto in cui viviamo e in cui circoliamo. Come vi dicevo, sempre con noi Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, e sono tantissime le vostre domande. Io peraltro sempre un po' di pregiudizio su questo argomento. Vabbè, c'è la data in cui è ora di fare il cambio, andiamolo a fare, diamo un'occhiata all'ordinanza o del comune o della provincia o della regione, è finita lì. E invece le domande sono tantissime da parte degli ascoltatori, ovviamente sulla qualità delle gomme che utilizzano, su questa questione anche degli pneumatici che valgono per tutte le stagioni. Dottor Bertolotti, ci sono tante domande su questo: vanno bene, non vanno bene, si può risolvere una volta per tutte il problema senza fare il cambio 2 volte l'anno? Ma allora, non esiste da un punto di vista tecnico la definizione di pneumatico per tutte le stagioni, mentre tecnicamente sono definiti i pneumatici estivi e i pneumatici invernali. Quindi l'addizione pneumatico all season, 4 stagioni, multipurpose e così via, è un'addizione commerciale, quindi ciascuna azienda gli accredita una determinata caratteristica che può essere diversa da un'altra. In linea di massima, il mercato ormai è pieno di questi tipi di prodotti che dipende, diciamo, dalla marcatura che hanno sul fianco, e quindi possono avere la semplice scritta M+S, che è almeno M+S, cioè Mud, Snow, Fango e Neve, è la scritta che identifica anche il pneumatico invernale. Però se uno vuole acquistare... Io pensavo che volesse dire Medium e Small, pensa che bestia. Mentre se uno vuole veramente un pneumatico invernale ad alte performance, deve cercare, oltre alla scritta M+S, una montagna a 3 punte con al centro un fiocco di neve. Allora facciamo così: siccome noi diamo sempre indicazioni molto pratiche e concrete, in quale, secondo lei, territorio o in quale caso è consigliabile per un automobilista utilizzare comunque questi presunti pneumatici, chiamiamoli così, che vanno bene per tutte le stagioni? questi pneumatici, suggerimenti di buon senso. Ma il suggerimento di buon senso è utilizzarli in vetture di piccola cilindrata, mm-hmm, per una circolazione in ambito urbano dove sappiamo che generalmente non si verificano precipitazioni nevose o forti, mm, ghiacciate. Ecco, mi veniva da oppure dire se c'è Roma, la neve non sta a casa. Ecco. Ecco. Viola ci scrive un SMS. Sì, carina. Allora, splendide fanciulle. E noi l'abbiamo scelta per questo. Infatti di lei non parla, mi spiace. Bene. Va bene. Sono anziana, guido solo vicino a casa a Roma. Ecco. Devo mettere gli pneumatici invernali? La risposta no. è no. Io se direi no, allora, Viola, se no. C'è, allora io direi no per una persona anziana che fa poco e non c'è un'ordinanza. Anche allora, se al non massimo è anziana, perché ci sono anche i giovani che esatto fanno. Esatto. Cioè, mettiamola così. È un differenza. No, ma molto semplicemente perché siccome dice che magari la sua circolazione è limitata. Mm. Parenti del sottoscritto, il consiglio è stato proprio quello di rimanere a casa, perché poi vanno semplicemente, utilizzano il mezzo per andare al cimitero e tornare indietro, insomma, o fare la spesa. E quindi diciamo ecco che se in questo caso il vigile urbano o un agente di polizia volesse proprio ostinarsi a fare il controllo delle gomme di quest'auto, non penso che nessuno arresterà Viola per il fatto di non aver fatto il cambiamento. No, allora senti, dai, che la nostra preferita di oggi è la domanda di Silvano dalla provincia di Pesaro Urbino. Silvano, c'è un po' incuriosito il suo quesito. Faccio anche, ho fatto anche rima. Vedi che se la ride sotto i baffi. Ci dica, ci dica. Sì, buongiorno e buona neve innanzitutto. Perché no, non dica così, che io devo attraversare quelle zone nelle prossime ore, Silvano. Mi faccia fare il viaggio tranquilla, la prego. Allora, ci dica. Bene, io chiedevo questo. Le catene a bordo, sì, in caso le autorità ci fermano, ci possono chiedere sei capace di montarle? Io sono già in carcere, Silvano. Non so, io anche tu sei dietro capace? No, assolutamente no, ma allora, Silvano, dobbiamo prendere adesso, ci manca pure questo nuovo balzello, la patente per saper montare le catene. Ma adesso, a me fa abbastanza sorridere, nel senso che la domanda magari è anche lecita, no, quella di chiedere se uno è in grado, certo, di montarle. Quello che invece il poliziotto sarà chiamato a fare è che nel momento in cui c'è neve al suolo, certamente obbligherà la persona a montarle, e se non sarà in grado di montarle o lo aiuterà, come spesso succede, perché questo è quanto fanno le forze dell'ordine. Ecco, mi ha dato un po' di sollievo. È certo, anche se non possono, non è il loro dovere devi fermare e dire scusi mi monti le catene. No, vabbè, batto un po' le ciglia e chiedo cortesemente mi aiuta, oppure la mollo lì la macchina, che è la cosa più probabile che possa succedere. Molto spesso si prestano a dare una mano, altrimenti sarà invitato a tornare indietro, invertire la marcia e tornare e indietro, quindi è un buon senso. Sì, certo. Diego da Roma, lei le sa montare le catene da neve? È caduto Diego, è andato a montare le catene. Per quale motivo? Allora, senta, andiamo un po' al consueto annoso problema del costo di questo cambio. Lo sa che le cifre che circolano tra i nostri ascoltatori sono le più incredibili, però insomma, se andiamo dal nostro carrozziere, dal nostro gommista di fiducia, che magari ci fa anche da magazzino, diciamo, delle quattro gomme che cambiamo, insomma, quanto dobbiamo spendere per fare il cambio, solo per l'operazione? Allora, l'operazione di montaggio e smontaggio è un ordine di grandezza attorno ai 30-40 euro per l'intero treno di gomme. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece l'acquisto del treno di gomme, cambia in maniera significativa in relazione soprattutto alla vettura e poi al tipo di gomma che uno vuole andare ad acquistare. In ogni caso comunque si parte da cifre di qualche decina di euro, certo, per arrivare a diverse centinaia di euro. Mm-hmm. Però attenzione, non è avere un doppio treno di gomme, e lo ha anche diciamo stabilito con un apposito studio il Politecnico di Torino, non è un maggiore costo, perché molto semplicemente se uno considera il ciclo di vita della propria autovettura, uno non compra una vettura e la vende dopo un anno, la tiene per 8-10 certo anni. Oggi in Italia il parco macchine è vecchio più di 10 anni, quindi considerata. Sì, avete fatto voi proprio una ricerca qualche mese fa. No, l'ho fatto al Politecnico di Torino. Il risultato, diffusa, sì. Certo, non l'abbiamo diffusa noi. Il risultato comunque è molto semplice. A fronte di un utilizzo della gomma, quindi se ho montata la gomma estiva non consumo quella invernale, viceversa, quindi c'è un maggiore costo dato dal montaggio smontaggio, ma che viene compensato da una ottimizzazione del consumo del pneumatico e del carburante. Attenzione, un messaggio importante che vale sempre: le gomme vivono d'aria, quindi devono essere gonfiate. Esatto. Oltre al 50% degli automobilisti non le gonfia. Chi non gonfia le gomme sappia che consuma, certo, da un 3 fino a un 15%, certo, allora, in più. Dottor Bertolotti, io non so mettere le catene, non so fare il cambio qualora si dovesse bucare una gomma, però faccio fare il controllo periodicamente, quantomeno alla pressione, quindi su questo sono tranquilla. Senta, perché una volta che si fa il cambio, invece di lasciarle in custodia al proprio gommista, volesse tenerle in casa? Secondo lei dobbiamo avere una cura particolare, naturalmente? Certo, per ci sono gomme. Alcune accortezze sempre su in garage, quello. Naturalmente, non mettetele in salotto. Io in casa mia non ho posto. Adesso tue, Carlo ti immagini stasera. No, magari Carlo te le mette lì. Generalmente non si mettono in casa e certamente non sul balcone, cioè esposte ai raggi ultravioletti, neanche quindi, coperte, vanno messe, vanno conservate in luogo asciutto, riparo, come la marmellata, ecco. Al riparo dalla luce, al riparo dall'acqua, con in condizioni anche di temperatura, quindi l'ambiente cantina può andare assolutamente bene, lontano da cannelli che possono, come fiammossidrica piuttosto che archi elettrici, sostanze che possono innescare un precoce invecchiamento. Tutte queste informazioni sono sempre sul sito www.pneumatisottocontrollo.it. Raccomandazioni per lo stoccaggio delle gomme. Pensando, magari il povero gommista ci fa pagare anche l'affitto per 6 mesi per i pneumatici. Guardate che un ascoltatore cosa dice? Ci tira un po' le orecchie e dice che non abbiamo risposta alla prima telefonata. Ha ragione. Se vale la pena di montare le gomme da neve ora che c'è ancora pioggia. Allora, e la colpa naturalmente è del nostro ospite che non ha risposto. Hai detto no, chiedo venia perdono, no, lo accontentiamo subito. Parlava di temperature attorno ai 15-20 gradi e se le gomme invernali si rovinano più precocemente. Non è questa la temperatura che innesca un degrado del pneumatico invernale, cioè in buona sostanza, per parlare di temperature sotto i 7 gradi è la condizione ottimale per il pneumatico invernale. Oh. Da 7 a 20-25 gradi sono, diciamo, prestazioni similari, poi a partire da temperature elevate evidentemente c'è un vantaggio dell'estivo rispetto all'invernale, soprattutto sullo spazio di frenata. Quindi diciamo che in questi giorni in certe località stia d'Italia c'è ancora, non c'è né maggior consumo di carburante né maggior consumo di pneumatico. E poi attenzione, è vero, 20 gradi temperatura massima, ma questa mattina a Milano c'erano 6 gradi e domani sono attesi 3, quindi siamo già in condizioni nelle prime ore del mattino, però cioè, dove si non verificano la maggior parte so degli incidenti. Io non so ancora se ma questo non c'entra con le gomme, la mia bougainville. Sai che io la mia bougainville, io tutti gli anni la proteggo con un telo tessuto che non con... tessuto, vede che lei è preparato. E su questa lo facciamo, so una trasmissione la magari settimana qualcuno prossima. Mi aiuta comunque. Luca ci scrive: se è la ruota di scorta deve essere anche quella invernale. Ma no, la ruota di scorta direi di no, è una particolarità la ruota di scorta, ormai sono molto pochi quelle che ce l'hanno, per cui non è questo un obbligo. Ma le gomme montate devono essere del tipo previsto, quindi se poi si buca la gomma, ahimè, ci troviamo di fronte ad una situazione di pericolo, oltre che di non conformità, di pericolo. Allora abbiamo la domanda di Marco da Pescara, a cui chiedo ancora un secondo di pazienza per chiedere invece a Bertolotti: quanti secondo lei hanno già fatto il cambio, perché sa che ci sono i vari furio della situazione, tutti meticolosi che vogliono trovarsi preparatissimi alla scadenza del 15 novembre? Molti, ma meno di molti, quelli ma meno. Di quelli che dovrebbero. No, di quelli che hanno già le gomme, perché molto semplicemente, proprio in ragione delle temperature, c'è stato, diciamo, un allungamento dei tempi, uno slittamento in avanti, quindi c'è ancora qualcuno e più di qualcuno che deve effettuare il cambio. Marco, benvenuto da Pescara, continuiamo ad esplorare il litorale adriatico quest'oggi, eccoci. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sentite? Sì, certo. Forte e chiaro. Allora, la mia domanda era questa. Una macchina a trazione anteriore, una macchina comune, sono sufficienti soltanto le due ruote davanti pneumatici invernali, oppure è necessario metterli tutti a quattro? La risposta è duplice. Allora, da un punto di vista legale, sì, è sufficiente avere due gomme invernali sull'asse trattivo e due gomme al posteriore. Da un punto di vista tecnico è una follia. Il Ministero dei Trasporti ha anche, non potendo introdurre quest'obbligo delle quattro gomme identiche, perché è previsto da direttiva comunitaria, ha molto semplicemente consigliato il Ministero di avere quattro gomme identiche, quattro gomme estive, quattro gomme invernali. piuttosto che montare due gomme invernali sull'asse attrattivo, il consiglio è mantenere l'omogeneità e tenere quattro gomme estive. Allora, e si, mette, esatto. Si portano le catene. Ovviamente, ovviamente. E anche quella è un'opzione. Vedo molte ascoltatrici che si occupano in prima persona della propria auto, quindi stanno cambiando anche molte cose, molte donne stanno prendendo veramente una grande autonomia anche nella gestione di queste faccende, qualche volta un po' considerate tipicamente maschili. E soprattutto Nilva, molte ascoltatrici seguono Cuore Denari. E a noi fa molto piacere. Fa molto piacere. Nilva, per esempio, ci ha scritto che ha fatto il cambio proprio oggi a Monza, ha pagato 55 euro, piccolo aumento rispetto all'anno precedente. D'altronde qua, come per molti altri settori, questo sta capitando. Le gomme invernali, Luigi da Lucca, dopo il terzo anno si deteriorano? No. Allora, non c'è una data limite di impiego legata alla data, anche dall'uso che se ne fa, cioè... Esattamente. Allora ci sono vedi tanti quante ne sai sulle bravissima, gomme ma le mie che faccio un sacco di chilometri si deteriorano certamente diversamente da quelle di una persona ma che vive dopo tre anni. Allora, dopo tre anni le mie gomme, io faccio 50.000 chilometri l'anno, esatto. Non ci sono mi più sa che ma io da l'ho un pezzo battuta quest'anno. Allora, abbiamo altri ascoltatori. Sì, Giosuè dalla Spezia, rapido perché stiamo andando verso la chiusura. Buongiorno, che bel nome. Sì, buongiorno Giosuè. Senta, il mio problema è questo. Volevo su internet, ho trovato delle gomme run flat, perché ho le run flat sulla macchina, la stessa categoria, però hanno la classe 91H anziché 91V e sono ricostruite. Le posso montare oppure no? Già, ha detto due o tre cose che già ha detto l'altro, si è un po'... Vabbè, allora, comprare su internet delle gomme, va bene, uno cerca quelle esattamente che fanno, come dire, al caso suo, che sono quelle necessarie per l'auto, replica tutte le siglette che è necessario individuare. Certo, ma allora, l'acquisto in internet è uno dei diversi e tanti canali per risparmiare un po', per cercare anche di risparmiare, ma non è detto che l'acquisto in internet produca un risparmio. Se uno si orienta verso gommisti, professionisti, aderenti a catene fidelizzate delle singole case, cioè è ovvio che se io vado ad acquistare un determinato marchio da una catena che non è di quel marchio lo pagherò di più quel prodotto, ma se vado e faccio coincidere la fidelizzazione con il marchio allora ottimizzo quello che può essere il prezzo. Io stavo d'acquisto. Pensando solo quando fa l'acquisto di internet e poi gli arrivano a casa queste cose. Poi c'è un altro tema che usa la porta al polpino. Certo, molto spesso allora non c'è questa combinazione, siccome le gomme ahimè non vanno su col pensiero, non vengono montate col pensiero, occorre avvalersi di qualche gommista e quindi alcuni siti danno già questo tipo di servizio, altri no, e certo. Quindi diventa poi un problema. Andiamo alla questione della sigla, queste run flat che indicava l'ascoltatore, ultima risposta di oggi, poi dobbiamo salutarla. Sì, run flat vuol dire sono quei pneumatici che hanno il fianco rinforzato che quando si bucano non si affrosciano. Detto questo, allora la sigla 91H 91V? Sì, allora fino a Q è sempre possibile montare, cioè fino a 160 km all'ora è possibile montare, ma attenzione, quel tipo di pneumatico potrà rimanere montato e in uso solo dal 15 di ottobre al 15 di maggio. Ecco qua. Bertolotti, grazie, ci rivediamo in primavera a questo punto bene, con lei. Bene, grazie, allora buon Natale. grazie a non tutti. Non mi avete parlato delle calze da neve. E allora faremo un'altra trasmissione prima di Natale insieme sono a quella di Babbo Natale. Mi ha scritto un ascoltatore. Dobbiamo chiudere che il tipo ci chiude. Ma a lunedì. Cuore e denari.